che confondo nel sabato è quasi peggio di quello che dicono con te, però c'è un non so che di magico, c'è un non so che, un non so che bellissimo. Dimmi quando arrivi, così ti tengo al posto, prendo già da bere, i tuoi gusti riconosco, entra che ho lasciato il tuo nome all'ingresso, tanto in giro da sola non resto. Ma non tutta la vita.